e siamo nate solamente per aver pazienza. E accettiamo il tempo dondolando come le altalene. Noi questa stragrande minoranza che ha il senso della vita e se ne frega del potere. Noi che il nostro cuore la speranza non la perde mai. Noi che siamo dure e diffidenti, perfino un po' cattive. È perché ci abbiamo sbattuto i denti e anche soprattutto il cuore. Noi siamo disegni di parole, non c'è un poeta che ci scrive. Noi che siamo sempre un passo indietro, come eliche di nave. Siamo chiuse a chiave per natura, sai. Siamo noi, noi, noi donne. Strano mistero, tanghi di fiamme, atti di gelo, sempre in viaggio ad inseguire i mesi, dietro alla luna calma della notte, vediamo tutto bello ad occhi chiusi, se mi accetti è così, se mi accetti. Noi che usciamo da una settimana e stiamo bene insieme, sappi che noi donne non passiamo facilmente dai tacchi alle ciabatte. Sarà che abbiamo infanzie prigioniere e padri un po' gelosi dopo mezzanotte. E il primo schiaffo è per il primo amore, non lo scordi mai. Siamo noi, noi, noi donne. Passi leggeri, anime nude, in mezzo ad occhi e desideri. Sogniamo tutte l'abito da sposa e per un giorno ci sentiamo belle. Poi ci si archivia in una cinepresa e si resta lì e si diventa fiorita.